Comunicazione 23, seconda parte. Allora, adesso affrontiamo la seconda parte del corso, che è quella più complicata. No, complicata, perché finora ci siamo raccontati una serie di cose. No, è stato, spero sia stato utile avere chiarito almeno alcune delle cose sulla, diciamo, natura e sulle prospettive del linguaggio. Va bene, sì, abbiamo 3 quarti d'ora, non so, ho messo un po' più di tempo a fare quella parte lì, ma va bene lo stesso. Poi tanto si recupera, questo va avanti nella lezione di mercoledì prossimo, facciamo solo questo. Allora, per impostare il, come dire, problema, da un punto di vista documentale, forse l'ho già detto nelle primissime lezioni, ma lo ripetiamo adesso. Sembra fuori di dubbio che la produzione di immagini, da parte di immagini artificiali, quindi degli esseri umani, sia di parecchio posteriore alla produzione linguistica, cioè l'uomo parla da molto prima di produrre immagini. La produzione di immagini sembrerebbe essere un'attività che deriva, cioè che viene molto dopo. Almeno noi abbiamo i più antichi documenti che noi abbiamo arrivano a 35.000 circa anni fa. 35, sì, diciamo i primi grossi 18.000, ma qualcosina c'è anche prima. Tra 35 anni, nei confronti di 200.000 anni, insomma. Però è indubbio che la produzione delle immagini è un'attività che è ovviamente collegata con quella del linguaggio. Si tratta di due modalità differenti di rappresentare, quindi di duplicare situazioni, eventi, cose che sono successe, cose che esistono, o addirittura di rappresentare anche cose più astratte. Si possono, con le immagini si possono, e si può evidentemente parlare anche, si può parlare, vedi che uso già un termine improprio anch'io, si possono rappresentare anche delle immagini, anche delle situazioni di tipo concettuale, si possono fare dei quadri concettuali, cioè questo nell'arte, nell'ultimo secolo e mezzo di arte, ne abbiamo visti di tutti i colori, quindi abbiamo la poesia visiva, abbiamo l'arte concettuale, abbiamo quindi le immagini, ma però questo c'è, grosso modo c'è sempre stato. Pensa a un quadro come quello di Tiziano, L'amor sacro e l'amor profano, sì, mi sembra sia Tiziano. L'amor sacro e l'amor profano sono due signore messe, certo, sono due figure, insomma, con femminili, messe una di fianco all'altra, ai due lati di una specie di ara o di sarcofago, di qualche cosa, una è molto sensuale, eccetera, l'altra è molto, no, l'amore sacro e l'amore profano, insomma, quindi è un trucco, perché il quadro rappresenta queste due signore che saranno state due modelle che sicuramente diciamo, però, diciamo, mentre un ritratto di uno scugnizzo napoletano, che diavolo ne so, mentre o il un quadro di Caravaggio qualsiasi, insomma, o è un quadro sacro, quindi racconta una storia della Bibbia o del Vangelo, oppure è il ritratto di una situazione, delle cose che Caravaggio vedeva intorno a sé, nella cosa, invece in questo caso si tratta di una della rappresentazione di un concetto, l'amore sacro e l'amore profano, che viene rappresentato con due figure, ma è un concetto che viene, non una situazione. Quindi si possono rappresentare anche delle situazioni, anche delle astrazioni si possono rappresentare con le immagini, però diciamo in modi ovviamente diversi. Qual è la specificità dell'immagine rispetto alla parola? E anche questo l'abbiamo già detto, la ripeto soltanto adesso, è il fatto che, lasciando da parte gli ultimissimi sviluppi dell'immagine o la concezione o l'uso, come dire, decorativo dell'immagine. Ci sono intere culture che non hanno, che non, per una serie di motivi, per esempio religiosi, non hanno mai sviluppato una consistente attività di riproduzione della figura umana. Per esempio, pensa a tutta l'arte islamica, che ha praticamente la proibizione di fare ritratti, eccetera, no? Sono soltanto motivi geometrici, però anche lì, cioè, allora, a parte quello, noi parliamo della tradizione figurativa, quindi di come si è sviluppata la produzione di immagini in Occidente, e sono largamente immagini umane, cioè immagini di esseri umani, sono esseri umani rappresentati, dipinti sulla tela, eccetera. Allora, mentre la rappresentazione verbale di un avvenimento, di un fatto, di un episodio, di una situazione reale o immaginaria, avviene utilizzando del materiale diverso, dissimile, non simile, non analogo a quello della situazione, non ci sono esseri umani sulle pagine dei libri, ci sono lettere, che sono la rappresentazione di parole, non ci sono esseri umani dentro un discorso, ci sono suoni, i quali però attraverso quel complicato processo che abbiamo visto, eccetera, eccetera, sono la nostra mente, quando comprende le parole, evoca delle, già questo mi sta raccontando la storia di una persona fatta così e così, di un guerriero greco con queste armi che si chiamava Achille, che fa una lotta con un altro guerriero troiano chiamato Ettore, ah sì, è così, e io me le immagino, ma sono, io parlo di Achille e di Ettore, non mostro Achille e Ettore. Se invece dipingo un quadro con il duello di Achille ed Ettore, faccio due persone che assomigliano ad un Achille reale e a un Ettore reale, quindi c'è una somiglianza di forma, di morfologia, insomma, no? Tra ciò che c'è sulla tela e ciò che è, diciamo, il soggetto della tela. Quindi è totalmente diverso. Se volessimo ricorrere ad una distinzione che non c'era certamente prima del Novecento, insomma, e quindi è totalmente anacronistica, però con il nostro vocabolario potremmo dire che, diciamo, mentre l'arte figurativa rappresenta, mentre la produzione di immagini rappresenta uno strumento analogico di riproduzione della realtà, analogico perché si basa su della, cioè, ripete, copia ciò che c'è in natura sulla cosa di una tela. Il linguaggio invece, ma tutti oggi chiamano. Il linguaggio invece rappresenta, è una forma di rappresentazione digitale, perché si basa sugli stessi principi sui quali si basano i linguaggi digitali. Sono invece di essere due soli, 0 e 1, ci sono 21 suoni, sono 21 mattoncini invece di 21, 22, 23, 25, quello che sia. No, ma diciamo, il linguaggio ha un funzionamento che è di tipo digitale, possiamo dire oggi, no? Perché si basa sulla combinazione di un numero finito di elementi di un alfabeto, di una come, esattamente come qualsiasi linguaggio che si basa sulla combinazione di un numero finito di suoni o di lettere o di segni grafici nel caso del linguaggio scritto. Analogico e digitale. Perché il termine digitale? Perché è quello digit, per gli inglesi digit, che viene da dito, digit è quello che gli inglesi indicano quando dicono 0 1. Lo 0 e l'1 sono due digits, due cifre digitali. Cifra vuol dire, cifra si dice digit in inglese. Deriva dalla parola latina digitus, che vuol dire dito. Okay. Sì, deriva da quello, certo, digitale. Però vuol dire quello, insomma, no? La differenza tra l'analogico, cioè quando fai una foto analogica usi una macchina fotografica in cui c'è una pellicola, c'è la luce che arriva, che impressiona, non le uso più, persone, infatti la cosa sta fallendo, ho capito, ma però si sono fatte per oltre un secolo si sono fatte così, diciamo, le foto, no? Sono foto analogiche quelle, no? Invece le foto digitali sono foto in cui non c'è nessun analogo reale, tu riproduci, non su nessun supporto, no? Come quando parli, non riproduci su nessun supporto, parli e le parole vanno per l'aria, eh? Non c'è un supporto, c'è l'aria che è un supporto, ma è molto volatile nel linguaggio parlato. Quindi è una situazione simile, analogico, diciamo digitale, quindi si può dire che il linguaggio rappresenta una forma digitale ante litteram, cioè anche prima che sapessimo cos'era il digitale, il linguaggio è sempre stato digitale, cioè è sempre stato astratto, no? Quella è una forma di astrazione, perché prendi dei suoni che non vogliono dire nulla, li combini insieme in modo che vogliono dire qualche cosa. Invece quando disegni una figura su un muro, su una tela, su qualunque superficie piana, costruisci una qualcosa che è analogo al tuo modello, analogo direttamente, cioè gli assomiglia, ha la stessa forma, è fatto, ci sono certamente delle regole, per esempio la prospettiva, eccetera, eccetera, ma insomma però tu fai dei gesti e espandi del colore o fai andare sulla superficie piana un oggetto capace di lasciare delle tracce più o meno nere, torcia carbonizzata o matita che sia, insomma, carboncino, fai quello, no? Si dice in genere che questa differenza analogico, diciamo, digitale, anche se chi magari lo dice non ha usato questa differenza che adesso io propongo di introdurre, ma insomma. Comunque si dice in genere che un'immagine vale più di mille parole, no? Perché cioè, l'immagine, la percezione dell'immagine è più immediata, perché io riconosco subito il soggetto o quello che il pittore o il disegnatore mi hanno, come dire, voluto dire, cioè che cosa hanno voluto rappresentare. Con un colpo d'occhio guardo e insomma, come dire, capisco, mentre invece nel caso del linguaggio, sia del linguaggio parlato che di quello scritto, io devo piano piano o rapidamente, ma devo sequenzialmente sentire i suoni o leggere le lettere sul libro, e quindi è una cosa diversa, non c'è il colpo d'occhio né nel libro né nel discorso. Finché io non ho finito la mia frase, tu non sai che cosa ho voluto dire, finché non sono arrivato al punto, mentre vedi la Gioconda e dici, ah, questa è la Gioconda, è una signora che sorride, vedi la Vergine delle Rocce, dice questa è una signora che, vedi la signora con l'ermellino, dici questo, e vedi quello che vedi, c'è il colpo d'occhio. Per questo si usa dire in genere che l'immagine è più potente, cioè una forza di comunicazione maggiore. Naturalmente quello che l'immagine guadagna in potenza, forse lo perde in potenza, diciamo in immediatezza, in forza immediata dell'impressione, comunque immediatezza forse è meglio dire. Quello che l'immagine guadagna in immediatezza lo perde in forza analitica, cioè in capacità, no? di comprensione. Fatto sta però che naturalmente non possiamo dire nulla sull'origine del linguaggio, abbiamo fatto delle ipotesi, abbiamo detto, ma insomma non c'è nulla, non abbiamo, si può dire ben poco, mentre per quell'altrettanto poco ovviamente che possiamo dire sull'origine della parola, mentre per l'origine dell'immagine, quel pochino che possiamo dire, per esempio delle pitture rupestri, delle grotte di Lascaux, insomma, e di Altamira, che sono tra le più antiche che ci sono rimaste, gli studiosi hanno fatto subito delle ipotesi che quelle immagini avessero un significato magico religioso, cioè che fossero delle specie di ausili, di aiuti, o per delle cerimonie fatte prima della caccia, per esempio, per insomma augurare al gruppo che sarebbe partito il giorno dopo, oppure dopo poche ore, per la spedizione di caccia, per augurare a questo gruppo una caccia di buon successo, eccetera. Allora, fatto sta però che una serie di indizi ci dicono che, nonostante questo, anzi probabilmente per questo, l'uomo ha sempre nutrito nei confronti delle immagini una certa diffidenza, proprio perché le ha considerate forse, non possiamo dire se ha ragione o ha torto, un po' troppo potenti, un po' troppo immediate. Non c'è nelle varie culture umane non c'è nessun segno analogo di diffidenza nei confronti del linguaggio. Nonostante che il linguaggio, come dire, sia chiarissimo fino dall'inizio che il linguaggio è una forma di espressione, di comunicazione, di quello che sia, adesso abbiamo discusso nell'ora prima, è una forma diciamo, di espressione che consente la menzogna, certo, possiamo dire bugie parlando, come dire, forse è la cosa principale questa del linguaggio, perché consente qualsiasi cosa che ci consenta di parlare di un argomento, di un qualunque argomento, in assenza dell'argomento stesso, quindi di raccontare una storia dopo che è successa o di parlare di una situazione prima che succeda, quindi di prevedere una situazione futura. Nonostante questo, certamente anche l'immagine ha questa capacità. Io posso chiaramente dipingere qualcosa che non esiste in realtà, certo. Anche nell'immagine ho un distacco tra l'immagine e il modello, cioè non c'è il modello quando io, e diciamo, il pittore può mentire tanto quanto il parlante. Però chissà come mai storicamente c'è stata questa diffidenza verso il pittore, cioè verso il produttore, verso chi produce immagini, verso le immagini prodotte, molto più che non verso il linguaggio. Molto probabilmente perché il linguaggio è molto più connaturato alle facoltà degli esseri umani che non, diciamo, l'immagine in quanto tale. Quindi anche verso chi produce immagini. In parte anche verso le immagini, ma comunque verso le immagini, sì, anche verso chi produce. Cioè, allora, per esempio, il fatto che esistano, sono esistite culture che hanno posto, che hanno, diciamo, che hanno dichiarato degli interdetti nei confronti delle immagini. Non si possono dipingere immagini, non solo di Dio, che sarebbe niente, ma neanche degli altri esseri umani. Ad esempio, la cultura ebraica e la cultura islamica non... La cultura ebraica ortodossa e quella islamica non prevedono, non si possono dipingere gli esseri umani, o perlomeno diciamo, le figure umane sono totalmente escluse dai templi, dai luoghi. Ora, i templi, cioè i luoghi, diciamo, della religione, sono tradizionalmente tra i... Sono tra i luoghi più importanti nei quali storicamente si sono create, voglio dire, le immagini, no? Dal Partenone greco alle chiese, diciamo, cristiane. È soltanto negli ultimi secoli che le immagini hanno cominciato a dilagare in altre zone, ma in gran parte, per gran parte della storia dell'umanità, le immagini artificiali sono state confinate in genere all'interno di luoghi pubblici e largamente, maggioritariamente all'interno dei luoghi religiosi, insomma, quindi delle chiese. Allora, ci sono delle culture che hanno creato un interdetto, ora, cioè, per dichiarare questo interdetto vuol dire che non ti devi fidare, vuol dire che devi considerare pericolose, vuol dire che, non, che no, per impedire agli esseri umani di fare qualcosa che potrebbero essere in grado di fare. E sappiamo che anche nella cristianità ci fu un dibattito del genere, cioè che a un certo punto qualcuno, soprattutto nella Chiesa romana d'Oriente, ma credo prima dello scisma, si preoccupò così tanto del fatto che le chiese fossero piene di immagini di santi, della Madonna, di Dio, eccetera, eccetera, addirittura di Dio, che ci fu un movimento chiamato Iconoclasm, il movimento degli iconoclasti, che voleva proibire di fare queste cose, cioè di fare queste immagini all'interno delle chiese, voleva bandire le immagini dalle chiese. E ci fu questa discussione sull'iconoclastia che poi gli iconoclasti persero, però, verso il X secolo d.C., credo, non ricordo precisamente, che gli iconoclasti persero, e questo evidentemente ha dato origine alla continuazione della storia dell'arte come la conosciamo noi, ma non ci sarebbe stata una storia dell'arte occidentale come la conosciamo noi se avessero vinto gli iconoclasti, sarebbe stata una storia dell'arte simile a quella islamica o simile a quella ebraica. Altre culture invece hanno una cultura come quella indiana, come quella indù, hanno una rigogliosissima produzione di immagini ovviamente, però altre invece culture che non sono civiltà magari come quelle ignorano totalmente, cioè molte delle culture orali ignorano l'attività di riprodurre e infatti non hanno l'occhio allenato neanche per riconoscere dentro qualche tratto su una superficie, insomma, un'immagine, no? Come gli aborigeni australiani che non erano in grado di leggere le fotografie, che non vedevano letteralmente nelle foto degli esseri umani, perché non riuscivano, erano delle macchie di bianco e nero, di cose più o meno nere, ma non riuscivano a capire. È come il gatto quando guarda la televisione, insomma, che non vede le figure, insomma, non si accorge che ci sono degli esseri umani in generale. Insomma. Che qualche gatto particolarmente allenato sia in grado di distinguere gli esseri umani, ma in generale non è così. Uno dei primi documenti di questa diffidenza delle culture umane per le immagini ce l'abbiamo proprio all'inizio della nascita, cioè poco dopo la nascita della filosofia greca in Platone. Platone ha una posizione nei confronti dell'arte, in particolare delle arti figurative, molto critica. Quando nella Repubblica, che è il suo dialogo più lungo e più complicato, la Repubblica è una specie di trattato di filosofia politica in cui Socrate, che è il protagonista di tutti i dialoghi di Platone, discute con altri suoi interlocutori sulla forma migliore dello Stato, come deve essere fatto lo Stato, eccetera, eccetera. È una specie di repubblica aristocratica a cui pensa Platone, oligarchica, eccetera, eccetera. E a più riprese nel libro si parla di come deve essere fatta questa, diciamo, repubblica, questo Stato ottimo, questo Stato ideale, e soprattutto di come bisogna allevare gli esseri, le persone, gli individui che devono poi, diciamo, guidare questo Stato, che vengono chiamati i guardiani. Se ne discute nei libri secondo e terzo della Repubblica una prima volta, e poi l'argomento viene ripreso nell'ultimo libro, che è il libro decimo della Repubblica, il quale il libro decimo comincia esattamente così. Questo è un dialogo un po' particolare perché è Socrate che racconta quello che ha detto lui, quindi non è come gli altri dialoghi in cui c'è Socrate, quando non parla è sempre Socrate. Il suo interlocutore si chiama Glaucon, quindi quello che parla quando dice io è Socrate. Certo, dissi io, ho ben presenti anche molte altre considerazioni su di essa, da cui risulta che abbiamo fondato la città nel modo più corretto di tutti, cioè vuol dire che hanno già fatto questa fondazione, e lo dico avendo in mente non da ultimo la questione della poesia. Poieserus, dice in greco, quindi è esattamente il termine che noi intendiamo per poesia. Attenzione, poesia però per i greci Sì, vuol dire certo più o meno quello che vuol dire per noi, ma la parola poesia deriva da un verbo che si chiama poiein, che vuol dire creo, quindi la poesia è una forma di creazione, per l'orasi è l'unica forma di creazione possibile. E lo dico, dice Socrate, avendo in mente non da ultimo la questione della poesia. Di che cosa si tratta? Disse Glaucone, risponde Socrate, di non accettare in nessun modo quanto in essa vi è di imitativo. La poesia, nella misura in cui imita qualche altra cosa, cioè descrive il, diciamo, reale, quindi, è qualche cosa che Platone, non Socrate, Platone, perché lui che scrive il dialogo, poi lo attribuisce a Socrate, ma noi non possiamo sapere cosa pensava Socrate, che non ha scritto nulla. Quindi Platone, dobbiamo dire, svaluta fortissimamente tutto ciò che è imitativo, cioè che imita, anche sul piano della poesia. Qui c'è un po' di cambiamento rispetto a quello che ho detto prima, perché in una prima fase sembrava che lui volesse... Dice, ma se imitano gli uomini virtuosi va bene, la cosa importante è chi si imita. Invece qua dice no, proprio anche la poesia, anche quando si tratta di parola, se imita qualche cosa non va considerata, non è una buona, diciamo, attività. Quindi non deve essere, come dire, una attività come dire, sovvenzionata, insomma, sostenuta dallo Stato, dalla Repubblica. E soprattutto non deve essere una attività che serve per educare, per formare quelli che devono fare lo Stato. Ma tantomeno lo servono per le arti visive, cioè per quello che noi chiamiamo le arti, come dire, visive. E questo perché? Perché ovviamente, quindi infatti adesso si salta tutta questa parte, perché è un po' lunghetta, riassumo. La vera, diciamo, ragione è questa, è che secondo Platone, che questo è il problema, se non ci fosse questa concezione non si capirebbe perché, secondo la concezione di Platone, il mondo sensibile, il mondo che cade sui nostri sensi, ciò che noi vediamo, eccetera, eccetera, insomma, tutti i giorni, non è un mondo reale, non è un mondo vero, non è dotato di realtà. Nella stessa Repubblica, qualche libro prima, qualche... centinaia di pagine prima, lui ha raccontato il mito della caverna e ha detto è come se gli uomini fossero messi dentro una caverna con le spalle rivolte, incatenati senza potersi muovere, con le spalle rivolte all'entrata e il viso rivolto verso il muro, con un grande fuoco tra loro stesse e guardano le ombre che il fuoco proietta sulla... E intanto passa della gente e la gente che passa fa delle ombre perché si mette tra il fuoco e lo spettatore, loro vedono delle ombre sulla caverna, non potendosi girare perché non si possono girare, eccetera, eccetera, e non avendo nessuna esperienza di quello che accade fuori, loro saranno, diciamo, condotti a pensare che il mondo vero sia la caverna e soprattutto la parete di questa caverna, e che gli esseri veri, gli esseri reali siano quelle ombre che saranno. Noi invece che siamo fuori sappiamo che non sono veri quelli, che sono ovviamente la copia, sono il prodotto, sono la proiezione. Dice, così è per noi. In realtà le cose del mondo non sono reali, sono la proiezione, sono la copia delle cosiddette idee, cioè di questi archetipi, di queste forme. Poi in realtà lui non spiega mai bene neanche, c'è tutta una lunga discussione qua su ma chi esiste l'idea dell'uomo e del cavallo, eccetera. E alcune delle risposte che dà Socrate sembrano escludere che esistano delle idee di oggetti materiali. Le idee sarebbero quelle dei concetti astratti. La giustizia, la bontà, la bellezza, la verità, tutte queste robe qua. Quelle sono delle idee che poi vengono proiettate nel mondo moderno. Però in realtà in altre opere e in altri pezzi della stessa Repubblica invece lui si esprime per il fatto che tutti abbiano, quindi anche le cose materiali, non sono altro che la copia di una, diciamo, idea. Il tavolo, esiste una idea di tavolo che sta nell'iperuranio. I tavoli attuali non sono altro, i tavoli reali non sono altro che delle cose, i tavoli che noi chiamiamo reali, i tavoli sensibili, quelli che si vedono si toccano e se ti cascano sul piede ti fanno male, sono solo la copia della idea di tavolo. Allora dice lui, siccome questi già sono una copia delle idee, quando uno le fabbrica, quindi non tanto il falegname fabbrica una copia di un'idea e va bene, è una copia di primo grado, diciamo. Perché lui sa in testa, sa come deve essere fatto un tavolo, sa in testa l'idea, quindi fa il tavolo come deve essere fatto. Ma quando un pittore dipinge il tavolo che ha costruito un artigiano, che copia è questa? Certo che è una copia, ma non è una copia dell'idea, è addirittura una copia dell'oggetto materiale, quindi è una copia di una copia di secondo grado, una copia di secondo ordine, no? Quindi dice, figuriamoci quanto può valere, e quindi ce l'ha. A un certo punto, addirittura sempre nella Repubblica, si lancia su di una discussione su chi debba essere, cioè chi è che conosce meglio l'oggetto, chi lo fa, chi lo fabbrica, chi lo costruisce o chi lo rappresenta. E vediamo come affronta questo problema qua. Parla sempre con questo Glaucone. Poniamo dunque, dice Socrate, che a cominciare da Omero, tutti i poeti sono imitatori di simulacri della virtù e degli altri oggetti su cui vertono le loro opere, ma non attingono la verità. Ora, come dicevamo, il pittore ritrarrà quel che sembra un calzolaio a quelli che al pari di lui stesso non sanno niente di questa tecnica, ma si basano solo sui colori e sulle figure. Non è così? Certo, dice Glaucone. Allo stesso modo, penso, dice sempre Socrate, diremo che anche il poeta dipinge con parole e frasi i colori appropriati alle singole tecniche, benché lui non sappia fare altro che imitare, in modo che ad altri simili a lui, che derivano la loro conoscenza solo dai discorsi, sembra che egli dica davvero bene, sia che parli della tecnica del calzolaio in metro, ritmo ed armonia, sia del comando di guerra, sia di qualsiasi altra cosa. Così grande è per natura quella sorta di fascinazione posseduta da questa forma espressiva, cioè della parola. Perché se si spogliano le opere dei poeti dai colori della musica e le si riduce alla nuda dizione, penso che tu sappia come finiscono per risultare. Forse lo hai già notato. Beh, sì, dice Glaucone. Non somigliano a vedersi, dissi io, Socrate, a quei visi di persone giovani ma non belle, quando li abbia abbandonati il fiore degli anni? Assolutamente, disse Glaucone, è vero. Cioè, dice, quando tu da una poesia gli togli tutti gli orpelli, il metro, la eccetera, poi il contenuto di una poesia, cos'è? È come una persona che non è bella da giovane, ma finché è giovane, vabbè, è giovane, è bella, quando invecchia, fa proprio schifo, cioè, è un po' brutto, così, cioè, somigliano a quei visi di persone giovani ma non belle quando li abbiano abbandonati il fiore degli anni, quando non sono più giovani. Allora, gli dice Socrate, considera questo, l'artefice del simulacro, cioè lo scultore o il pittore, l'imitatore, sosteniamo, non conosce nulla della realtà, ma solo l'apparenza, vede quello che si vede, o non è così, ma certo, dice Glaucone. Non lasciamo allora il discorso su questo a metà, ma vediamo la cosa in modo esauriente. Parla, dice Glaucone, vai avanti. Il pittore, diciamo, dipingerà redini e morso. Vuole dipingere un cavallo, redini e morso, sì. Ma a produrli saranno il calzolaio, le redini, e il fabbro, il morso. Certo. Però il pittore sa come devono essere fatte le redini o il morso? O non lo sa neppure il produttore, calzolaio o fabbro che sia, bensì solo colui che sa servirsene, cioè il cavaliere? Ha introdotto una nuova figura, quindi c'è un artigiano che costruisce materialmente un certo oggetto, un pittore che lo dipinge. In realtà dice adesso Socrate qua, dice guarda che nessuno dei due, né il pittore né l'artigiano sa come deve essere fatte, come devono essere fatte le reti nel morso, lo sa solo colui che fa servirsene, il cavaliere. Verissimo, dice Glaucone. Non diremo allora che le cose in ogni caso stanno così? E come? Che per ogni oggetto vi sono in un certo senso tre tecniche. Quella che lo usa, quella che lo produce, quella che lo imita. La tecnica di chi usa, la tecnica di chi produce, tieni conto che la parola greca tecne, che è quella del testo greco, technas, per i greci vuol dire anche arte. I greci non hanno un termine specifico per arte, per loro è tutto tecnica, artigianalità, artigianato. Ah, beh, è vero, dice, allora ci sono. Allora, sempre Socrate adesso, ma lì che martella, non va con un carro armato. Allora, l'eccellenza, la bellezza, la correttezza di ogni manufatto, animale o azione, sono relative a nient'altro se non all'uso, in vista del quale ognuno di essi è stato prodotto artificialmente o per natura. Sì, dice quello, certo, è così. Dunque, sempre Socrate, è del tutto necessario che chi usa ogni oggetto ne sia espertissimo, chi lo usa, e informi il produttore dei pregi e dei difetti che ciò di cui si serve presenta nell'uso. Per esempio, un flautista informa il fabbricante di flauti circa gli strumenti che gli servono per suonare e gli ordinerà il tipo che deve essere prodotto e quello lo servirà. Come no? Dice sempre come no. Fanno sempre la parte dei cretini gli altri, no? Perché è sempre Socrate sa sempre tutto, gli altri sì. Come no? Il primo dunque, cioè colui che lo usa, grazie al suo sapere, può informare sui flauti buoni e cattivi. Il secondo li produrrà perché gli crede. Cioè il flautista, il fabbricante di flauti, non potrebbe fabbricare dei buoni flauti se il flautista, cioè il suonatore di flauto, non la dice, senti, il flauto devi farlo così, devi prendere questo legno, devi fare la cavità così grossa, devi fare i buchi a questa distanza, glielo dice lui, perché diciamo, l'artigiano da solo non sarebbe in grado di farlo, è solo chi lo usa che conosce davvero bene come deve essere fatto uno, come dire, strumento. Dunque, riguardo allo stesso manufatto, il produttore avrà una corretta credenza circa la sua bellezza e i suoi difetti, perché frequenta chi sa ed è costretto ad ascoltarlo, mentre l'utente ne avrà scienza. Qui Platone distingue tra la credenza, cioè la pistis, come si dice in greco, cioè io credo qualche cosa, perché? Ma non è una conoscenza sicura, non è la scienza, non è l'episteme, come... Allora, l'artigiano ha solo una credenza, cioè crede giusto, perché se parla con uno di giusto, ma però non è lui che lo sa di per sé, non è la sua conoscenza, non dipende da una reale penetrazione, è soltanto l'utente che sa come deve essere fatto il flauto, come deve essere fatto le reti. L'artigiano che le fabbrica si deve limitare a seguire i consigli dell'utente, quindi non ne ha una scienza. Allora, questo fin qui siamo. Utilizzatore, artigiano, ma limitatore, adesso arriviamo all'ultimo ruolo del carro, che è il pittore, ma limitatore avrà scienza delle cose che ritrae, se siano belle e corrette o no, grazie all'uso che ne fa, oppure corretta opinione perché è obbligato a frequentare colui che sa e a seguire i suoi ordini su come si deve ritrarre? Né l'una né l'altra, gli risponde Glaucone. Per una volta parla lui, cioè il pittore non è obbligato né a parlare con il flautista né a parlare con l'artigiano che ha costruito il flauto se vuole dipingere un flautista. Si mette lì, guarda il flautista di lontano e vede e dipinge sulla tela quello che lui vede, no? Dunque l'imitatore non avrà né conoscenza né corrette opinioni circa la bellezza o i difetti di ciò che imita. In effetti non sembra. In stato di grazia sarebbe l'imitatore poetico per il sapere relativo alle sue produzioni. Proprio no. E non di meno imiterà, pur non conoscendo in che misura ognuno dei suoi argomenti risulti dannoso o vantaggioso. Non sa un cazzo del flauto questo pittore, dipinge a cazzo, vede e dipinge, ma non sa bene se la posizione che ha fatto è proprio giusta o se ha beccato quello in un momento sbagliato, siccome non sa nulla di come si suona il flauto, di come si costruisce un flauto, è un superficiale della Madonna, è un superficiale, no? Non ha non conoscendo in che misura ognuno dei suoi argomenti risulti dannoso o vantaggioso, ma a quanto sembra ciò che appare bello ai molti che nulla sanno, questo lui imiterà. Lui imiterà ciò che appare bello ai molti che nulla sanno, cioè agli ignoranti, a quelli che non sanno suonare il flauto e che quindi dicono, ah che bello, così lo dicono superficialmente, che non sanno nulla. E che altro, dice lui. Su questo allora, almeno pare, noi siamo onestamente d'accordo. L'imitatore non sa nulla che valga la pena di menzionare circa le cose che imita, bensì l'imitazione è una sorta di gioco, privo di serietà, cattivissimo. E coloro che si dedicano alla poesia tragica, adesso ho ripassato alla poesia, prima ho fatto l'incursura, ma adesso ho ripassato alla poesia, e coloro che si dedicano alla poesia tragica in giambi o in versi epici sono tutti imitatori, come più non si potrebbe, ma senz'altro. Per Zeus, dissi io. Ma questo imitare verte sul terzo livello a partire dalla verità, o no? Eh sì. Ma su quale parte dell'uomo esso esercita il potere che possiede? Di che cosa stai parlando, gli dice. Di questo, l'identica grandezza non ci appare uguale se la vista la percepisce da vicino o da lontano. No, in effetti no. E gli stessi oggetti, a seconda che vengano osservati nell'acqua o fuori, appaiono curvi o dritti, concavi o convessi a causa dell'errore della vista rispetto ai colori. Le teorie ottiche di Platone non erano un granché, perché Newton non aveva ancora nascito, ma insomma. Ed è chiaro che nella nostra anima è presente ogni sorta di confusione, su questo tipo, È dedicandosi a questa affezione della nostra natura che la pittura prospettica, al pari dell'illusionismo e dei tanti altri trucchi di questo genere, non manca di nessun carattere della magia. Questo è uno dei passi sui quali gli storici dell'arte si basano per dire che i greci sicuramente conoscevano una specie di prospettiva, se non proprio quella rinascimentale, che poi si sarebbe persa dopo, nel suo esempio, lui parla di prospettiva. È del caso di questa natura che la pittura prospettica, vediamo com'è il termine, se lo trovo, schiagavia pizzendoli, non lo trovo. Mazzemati. E insomma c'è il termine prospettiva. Quindi la pittura prospettica, secondo Platone, sarebbe una specie di magia, come l'illusionismo e tanto, per fare dei trucchi, per far sembrare le cose come se. È vero, dice Platone. Tuttavia il misurare, il contare, il pesare non si rivelarono splendidi aiuti contro questi errori? Sicché non dominano in noi l'apparenza del maggiore e del minore, del più e del meno e del più pesante, bensì l'elemento che ha calcolato, misurato e magari anche pesato, e come no, certo. Ma questa sarebbe certo la funzione della parte razionale presente nell'anima. Dice quindi, contro questi errori, è molto facile, basta prendere, misurare, reale, quanto è lungo questo, pesare, quanto, e questa cos'è che fa queste cose, secondo lui? Quindi, diciamo, tutto ciò che con i sensi mi sembra, quello è più piccolo perché è più lontano. No, basta, andiamo a prenderlo. Misuriamolo, vediamo che è lungo tanto quello che è tanto lungo quanto quello che sta qui. Lo vedo più corto solo perché è più lontano. Quindi l'anima razionale, la razionalità dell'anima interviene sulle cose e può correggere gli errori dal punto di vista. Ma accade spesso che a questa parte razionale dell'anima che ha effettuato le misurazioni e segnala che certe cose sono maggiori o minori le une delle altre, oppure uguali, si presentino allo stesso tempo e per le stesse cose apparenze contrarie. Io posso certamente misurare, però se ho questo libro qua e questo libro qua e questo lo metto là e questo lo metto qua, questo mi appare più lungo di questo perché quello è più lontano, misuro, ma come? La mia anima razionale entra in conflitto con la mia percezione. Adesso abbiamo finito, tra un minuto. Vabbè, certo, non si diceva però, dice sempre Socrate, che è impossibile per la stessa parte dell'anima avere opinioni contrarie fra loro nello stesso tempo intorno alle stesse cose. Lo si diceva, e giustamente. Dunque, la parte dell'anima che opina ignorando le misure non sarà identica a quella che ne tiene conto. Allora, qui Platone si salva e dice, ma perché è l'anima che è fatta di cose diverse, non diciamo la mente, l'intelletto umano. C'è una parte che ragiona sulla base delle semplici apparenze e una parte invece che ragiona sulla base della razionalità. Ma, dice lui, dice sempre Socrate, quella che presta fede alla misura e al calcolo razionale sarà la parte migliore dell'anima, mentre quella che le si oppone sarà parte di quanto vi è in noi di inferiore. È giusto, dice sempre il povero Locone. Proprio perché volevo giungere a convenire su questo, dicevo che la pittura e più in generale la tecnica dell'imitazione producono una propria opera che è lontana dalla verità. E inoltre sono legate a quella nostra parte che è lontana dall'intelligenza, sue compagne e amiche per scopi che nulla hanno di sano e di vero. Quindi l'illusione dell'arte figurativa è legata a quella parte della nostra anima che è inferiore, perché non è l'anima che ragiona, no? Che, come dire, misura, che dice le cose, ah, dice giusto. È inferiore dunque, dice, insiste Socrate, è associata a ciò che è inferiore. La tecnica mimetica genera cose inferiori. Ma questo accade, dice sempre Socrate, soltanto in rapporto alla visione o anche all'udito, cioè a quella che chiamiamo poesia? E Glaucone, poveretto, dice, è costretto a dire, è probabile che accada anche per questa. Non affidiamoci perciò solo all'immagine tratta dalla pittura, ma rivolgiamoci ora proprio a quella parte del nostro pensiero alla quale l'imitazione poetica è legata e vediamo se cobra poco oppure seria. E segue una terminazione anche della poesia, oltre della pittura. Quindi la poesia è stata già servita. Allora, è chiaro come la pensava Platone. Cioè, è una svalutazione totale, proprio che schifo. Cioè, è collegata alla parte più inferiore, più ignobile dell'animo umano, quella che si accontenta, no, delle apparenze. Ovviamente tutta la filosofia di Platone è una, non si può dire che sia giusto questo, anzi probabilmente è una schifezza, certo. Perché proprio c'è questo disprezzo del mondo come appare, delle cose, insomma, della vita, dell'esperienza concreta, insomma, no? Invece bisogna ragionare con le idee, bisogna razionare, l'anima razionale, le grandi idee, le robe, eccetera, eccetera. Ce ne sarebbero molti altri passi in molti altri libri di Platone, ma questo è uno dei più forti, dei più, sono dovuto leggere per farti capire cosa sono. Questa cosa avrà una grande influenza sulla cultura occidentale successiva. Rafforzata poi dal cristianesimo, il quale avrà un atteggiamento ambiguo verso l'immagine, no? Da un lato la usa per suscitare la devozione popolare, per tenere le cose, però contemporaneamente c'è sempre questo nucleo platonico in tutto il cristianesimo che è una svalutazione del corpo, delle cose, eccetera, eccetera. E questo è importante perché, bisogna sempre tenere conto che anche nel momento, di massimo fulgore o di massimo successo, diciamo, politico, sociale e mondano dell'immagine, però il retro, diciamo, lo sfondo sul quale questo successo è sempre quello di una diffidenza della cultura, della cultura nei confronti dell'immagine. Diffidenza che deriva in gran parte, o che Platone è stato uno di quelli che ha espresso per primo. Va bene. Ci vediamo venerdì. Sei a posto?